perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sui migranti, ennesimo vertice europeo senza esiti sostanziali. La Turchia chiede altri 3 miliardi e si rinvia tutto al 17 marzo. E domani intanto arriva la pioggia su 13.000 persone ammassate nel campo. 8 marzo, in 10 anni pochi progressi per occupazione femminile, riduzione delle differenze salariali, presenza ai vertici delle aziende. A Napoli, dopo i video con i soldi dati ai votanti delle primarie, Bassolino starebbe preparando il ricorso per Roma, ipotesi di candidatura a sinistra di Giachetti. Positiva ai test antidoping, la tennista Maria Sharapova si difende. Era una sostanza consentita fino all'anno scorso, ma saltano gli sponsor Nike e Tag Heuer. La Roma ci prova questa sera il ritorno di Champions contro il Real Madrid nella capitale spagnola. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E sì, lo sapete benissimo, a chi ci ha scritto, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico in regia che non è effetto noto ma effetto giorno. Il 349-238-6666 per i vostri sms, tanto quanto per i messaggi su WhatsApp, e effettogiorno@radio24.it per scriverci. In apertura, dunque, oggi parliamo del vertice europeo di questa notte sui migranti, ancora una volta si è concluso sostanzialmente senza esiti, qualche piccolissimo passo avanti, ma a pesare su tutta la trattativa ci sono le richieste turche di altri 3 miliardi, oltre ai 3 già promessi, per la gestione dell'emergenza e la richiesta di un'accelerazione del processo di adesione all'Unione Europea. Accelerazione che l'Italia ha chiesto di vincolare alla libertà di stampa nel paese, in ore nelle quali quello che era il principale giornale d'opposizione è stato commissariato e ora è pro-governativo. Così il Presidente del Consiglio Renzi. Ogni Consiglio Europeo si fa un passettino, ma detta in italiano che fatica che si fa. Diciamo che rispetto alle richieste turche sono abbastanza state, diciamo, attutite. C'è un riferimento comunque al fatto che abbiamo avuto una bella discussione sulla libertà di stampa. E ci sono le altre voci di questo vertice, facciamo sentire due di fronti opposti a partire da questa. Necessary. È la voce del premier greco Alexis Tsipras, che dice è necessario accelerare il processo di ripartizione dei migranti e renderlo credibile, così che tutti possano capire che in Europa abbiamo principi e valori comuni che si condividono. E poi c'è questa. Viktor Orban, il leader ungherese, il quadro giuridico di Schengen deve essere rispettato e attivato. Dice eventuali immigrati dalla Turchia non vanno trasferiti verso l'Europa. L'Ungheria non sarà certamente coinvolta in questo accordo. E mentre si discuteva a Bruxelles, certo è un risultato che sembra stridere con forza con quello che succede quotidianamente ai confini dell'Europa. I domeni, per esempio, dove sulle 13.000 persone ammassate al confine tra Grecia e Macedonia si è abbattuta questa notte una pioggia violentissima. Prosegue dunque il nostro viaggio nel cuore della nuova crisi europea, ossia la Grecia. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. E dunque è proprio a Didomeni che andiamo adesso. Abbiamo in collegamento dal confine la nostra Valentina Furlanetto, alla quale chiediamo innanzitutto di raccontarci come è stata questa notte, le immagini che abbiamo visto, e alcune tra l'altro lei le ha anche postate su Twitter, sono terribili. È stata una pioggia violentissima che si è abbattuta su 13.000 persone. Valentina. Sì, Simone, buongiorno. Innanzitutto, in effetti è così. La pioggia per 3 ore ieri si è abbattuta su questo campo, lo ha distrutto in parte nella parte la parte dove c'era la terra, il fango, perché alcuni si sono messi sopra la ferrovia, nella zona della ferrovia, quindi un po' i sassi hanno drenato l'acqua, mentre moltissime tende sono in questi campi, voi dovete immaginare una campagna aperta. Quindi in questo momento il sole sta un po' asciugando le pozze d'acqua, ma chiaramente il morale è abbattuto, c'è rabbia, frustrazione, paura. Molte donne in lacrime stamattina cercavano di svuotare le tende dal fango con delle pale di fortuna. Molti bambini che si sono ammalati perché hanno dovuto alcuni anche stare fuori alla pioggia perché le tende si erano infangate. Un ragazzo è collassato per il freddo, è stato ricoverato. E l'ipotesi che arriva da Bruxelles, perché anche le notizie qui che arrivano da Bruxelles non non contribuiscono ad alzare il morale, l'ipotesi di venire ricollocati in Turchia terrorizza questi profughi, un po' perché si tratterebbe di tornare alla casella numero uno di questo gioco dell'oca, questo crudele gioco dell'oca, dopo aver speso dei soldi, energie nel viaggio, e un po' per il tipo di Stato che è la Turchia. Ad esempio abbiamo sentito Ala Omer, che è un ingegnere della città curdo-siriana Kalansli. Lui dice che come curdo non sarebbe mai bene accolto in Turchia, ma sentiamo la sua voce. Allora, Valentina, abbiamo un problema audio con la voce, se ci vuoi raccontare tu che cosa ti dice. Ah, ecco, Alal, che abbiamo sentito proprio questa mattina mentre usciva dalla tenda, diceva in questa testimonianza abbastanza forte, innanzitutto che non sarebbe mai partito se si avesse saputo quello che gli sarebbe accaduto a lui e alla famiglia, alla moglie e ai tre figli. Poi mi diceva, se la guerra finisse oggi, un minuto dopo io prenderei le mie cose e tornerei in Siria. È possibile che l'Europa non si renda conto che la guerra non l'abbiamo voluta noi? Tutto questo, diceva, il fango, le tende, i bambini ammalati, non è umano. In Siria ci bombardavano, ma non eravamo in tende di fortuna nel fango sotto la pioggia. Chiaramente è una delle tante testimonianze. I siriani curdi sono i più preoccupati di un possibile ricollocamento in Turchia. Abbiamo parlato stamattina anche con il direttore delle emergenze di Human Rights Watch qui a Idomeni, Peter Buchheffer, e ha detto che questa è una crisi, non una crisi umanitaria di guerra, ma una crisi umanitaria creata dall'Unione Europea, dalle politiche dell'Unione Europea, ed è stata scaricata sulla Grecia. Lui ci diceva proprio come hanno scaricato talvolta questa situazione dei migranti sull'Italia. Ipotizzava anche lui la possibilità che molte persone qui prendano la via dell'Albania più che la Bulgaria, che è più difficile per una serie di ragioni burocratiche e anche geografiche. L'Albania è la prospettiva di molti qui, quelli che non si arrendono e vogliono a tutti i costi arrivare in Europa. Altri invece stamattina si sono arresi, sono saliti sui pullman e verranno ricollocati in Grecia, ma la Grecia è allo stremo, la crisi economica ha ovviamente messo in ginocchio questo paese e non ci sono più posti a disposizione ad Atene. Allora, io ti ringrazio anche per oggi, la nostra Valentina Furlanetto, per questo racconto che prosegue ovviamente nel corso di questa settimana nel viaggio che stiamo conducendo al centro della crisi che sta riguardando l'Europa, e anche sul nostro sito www.radio24.it, dove trovate, oltre al materiale audio, altro materiale multimediale, ovviamente anche racconti scritti. Grazie Valentina, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, buona giornata, grazie. Ma c'è un altro fronte europeo che in queste ore resta aperto, è quello dei conti pubblici. L'Europa è preoccupata per i conti pubblici italiani. Il deficit è peggiorato da novembre, il debito è troppo elevato. Mentre si attende il richiamo ufficiale della Commissione europea, l'Eurogruppo parla infatti di rischio di deviazione significativa dagli obiettivi di aggiustamento di bilancio. Nel mirino le misure prese dopo l'ultima valutazione di Bruxelles del novembre scorso, che hanno aumentato il deficit dell'Italia. Un rischio che resterebbe anche se fosse concesso il massimo della flessibilità. Ma la partita principale si gioca sul tavolo della Commissione europea, che nel pomeriggio dovrebbe inviare una lettera di richiamo sul debito. Nulla di nuovo, non sono preoccupato, minimizza il ministro dell'economia Padoan, che ribadisce il debito pubblico si è stabilizzato e da quest'anno tornerà a calare. Non mi sembra che il punto sia che ci chiedono qualcosa in più, il punto è che dobbiamo definire con la Commissione il quadro di finanza pubblica, e questo in quanto, come ben noto, la Commissione deve ancora sciogliere il nodo della flessibilità addizionale che noi abbiamo richiesto. Tutto si tiene. Il governo esclude la manovra correttiva, al massimo un piccolo aggiustamento a costo zero. I conti italiani non sono al sicuro, sono allo strasicuro, assicura il premier Renzi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Oggi è l'8 marzo e lo sapete, la festa internazionale della donna. Iniziamo subito da una notizia arrivata questa mattina, ossia l'ennesimo omicidio di una donna da parte di un uomo. Un cittadino tedesco ha tolto la vita alla compagna e poi si è ucciso. È avvenuto nell'Alto Padovano. In macchina è stato trovato anche un mazzo di mimose. Ma oggi è anche l'occasione per parlare delle differenze di genere che ancora esistono e sono forti in termini economici, in termini di rappresentanza politica e aziendale. Sentiamo. Il bicchiere resta mezzo vuoto per le donne in Italia. Nonostante i passi in avanti fatti nell'ultimo decennio, alcuni indicatori fondamentali dicono che la situazione a livello complessivo non è migliorata di molto, a cominciare dall'occupazione. Resta ampia la disuguaglianza tra uomini e donne sul mercato del lavoro. Le donne hanno tassi di occupazione decisamente inferiori rispetto agli uomini e minori protezioni previdenziali. Il tasso di occupazione femminile resta fermo al 47,5%, contro quello maschile di poco inferiore al 60%. La differenza salariale a parità di mansioni rimane ancora alta e di questo passo ci vorranno 70 anni per sanarla. I vertici delle aziende italiane, inoltre, sono ancora tutti al maschile. Il bicchiere mezzo pieno lo vedono le nuove generazioni, con le laureate che sono il 60% del totale, le manager che crescono nella fascia di età sotto i 35 anni e le imprese al femminile sempre più giovani. Non manca il guizzo delle start-up innovative con le regioni del Sud Italia che fanno la parte dei leoni. A guardare la fotografia dell'Italia oggi, 8 marzo, c'è poco da festeggiare, ma ci sono le basi per cambiamenti strutturali di medio-lungo termine. Basterebbe solo riuscire ad accelerare il processo di rinnovamento. Monica D'Ascenzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro la scuola festeggia l'8 marzo con un mese di iniziative per incoraggiare le ragazze a non aver paura delle materie scientifiche, perché è quello che effettivamente avviene. Maria Piera Ceci ha intervistato il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Un'intelligenza femminile che perdiamo è uno spreco che non possiamo più permetterci. Spesso è non mancanza di vocazione, sicuramente non mancanza di talento, ma diciamo una certa timidezza di fronte a certi campi del sapere. Quando vediamo che di fronte all'80% di iscritti a lettere c'è un 35% di iscritti nelle materie scientifiche, significa che c'è un gap che va ancora colmato, e siccome questi sono settori su cui si giocherà molto della sfida del sapere, non solo guardi dell'avanzamento tecnologico, proprio del sapere del futuro immediato, noi dobbiamo fare un grande sforzo perché anche le ragazze si sentano pienamente libere di scegliere. Avete sentito nei titoli, le primarie del centro-sinistra si arricchiscono di un nuovo fronte di scontro. Il sito Fanpage ha pubblicato una serie di video nei quali si vedono rappresentanti del PD elargire denaro per il voto e Antonio Bassolino starebbe pensando a presentare ricorso. Brogli devono sporcare sempre tutto. Parla la vincitrice delle primarie a Napoli, Valeria Valente, dopo lo scandalo del video di Fanpage. Ma oltre non va, non chiarisce chi vuole sporcare. Una cosa è certa, la commissione di garanzia per le primarie è convocata per domani pomeriggio alle 17, ma non potrà esaminare il video incriminato a meno che non ci siano precisi ricorsi in merito. E questo perché nei verbali dei 78 seggi i fatti che si vedono in quel video non sono riportati. In silenzio dopo la sconfitta per pochi voti sembra intenzionato a ricorrere Antonio Bassolino, il che aprirebbe senz'altro scenari nuovi. Nella Fondazione Sud, da lui presieduta, mattinata di riunioni, ma al momento ancora nessuna decisione definitiva. A parlare invece è il sindaco in carica Luigi De Magistris. È uno squallore, così si squalifica la politica, le sue parole. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti sentiremo uno dei consiglieri comunali ritratti in questi video pubblicati da fanpage.it mentre elargisce del denaro davanti a un seggio, e sentiremo che cosa avrà da dirci. Veniamo alla cronaca, emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Roma. Voglio credere che sia stata la droga a mandarlo fuori di testa, altrimenti cosa dovrei pensare, di aver generato un mostro? Così Walter Foffo, il papà di Manuel, uno dei due giovani fermati per l'omicidio a Roma del 23enne Luca Varani. È stato lui a raccogliere per primo il racconto del figlio e a spingerlo a confessare, ha ricordato a Porta. Quando io gli ho detto, ma sei sceso così in basso, lui mi ha detto, ci sono cose ancora più in basso. Io gli ho detto, più basso di assumere cocaina non c'è niente. Ci sono altre cose. Dimmi, quali sono le altre cose che sono definite più basse della cocaina? Dici no, perché abbiamo ammazzato una persona. Manuel e Marco Prato, l'altro responsabile del delitto, salvato dopo aver tentato il suicidio, dovranno ora rispondere di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Hanno infatti raccontato di non aver avuto un movente, di aver ucciso imbottiti di droga e alcol solo per vedere cosa si provasse a farlo, di aver seviziato Luca, morto solo dopo del tempo, di essere rimasti a dormire nello stesso appartamento dell'omicidio dopo il delitto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo agli aggiornamenti sulla vicenda dei due ostaggi morti e dei due liberati in Libia con Roberta Pellegatta. Roberta. Sì, buongiorno. I familiari dei nostri connazionali rapiti e uccisi in Libia sono a Roma in attesa delle salme. Si tratta della moglie di Salvatore Failla e dei parenti di Fausto Piano, con loro il legale della vedova Failla, Francesco Caroleo Grimaldi, secondo il quale il ritardo dell'arrivo in Italia dei feretri sta assumendo aspetti inquietanti. Ad annunciare il rientro delle salme entro la giornata di oggi era stato ieri il ministro degli esteri Gentiloni, il quale aveva però aggiunto un significativo se possibile, e in effetti i corpi dei due tecnici della Bonatti al momento si trovano ancora in Libia. Lo stesso avvocato della vedova Failla ha affermato di non avere conferma di un rimpatrio oggi e di non sapere se le salme si trovino ancora a Sabrata, dove i due nostri connazionali in un villaggio vicino hanno trovato la morte, o se siano già state trasferite a Tripoli, dove erano attese dal procuratore per mezzogiorno, a quanto dichiarato dal sindaco di Sabrata Hussein Al-Zawadi, il quale non ha saputo dire se i corpi siano già stati sottoposti ad un'autopsia o ad un esame autoptico, come era stato annunciato giorni fa. Ancora non c'è notizia, sono le 13:15 dell'arrivo delle salme a Tripoli. Dunque appare sempre più improbabile che i corpi di Salvatore Failla e Fausto Piano arrivino davvero oggi in Italia, e ormai si pensa che non verranno fatte rientrare prima di domani. Nel frattempo emergono particolari sul giorno del rapimento dei quattro nostri connazionali, il 19 luglio scorso, intorno al quale i due sopravvissuti, Calcagno e Policardo, non hanno voluto rivelare dettagli per non intralciare, hanno detto, il lavoro della magistratura. A quanto scrive oggi Repubblica, quel giorno il trasferimento dei quattro tecnici dalla Tunisia all'impianto di Melita in Libia sarebbe dovuto avvenire via mare su una chiatta per motivi di sicurezza. Invece, a sorpresa, ad aspettare i nostri connazionali all'aeroporto di Gerba c'era un autista, definito dalla Bonatti di fiducia, a bordo di una macchina senza scorta. Non si conosce il perché del cambiamento di programma, ma vero è che nel tragitto in auto dalla Tunisia alla Libia qualcuno deve avere tradito e in qualche modo venduto gli italiani a banditi filoislamisti. Forse l'autista stesso, magari per qualche controversia con la Bonatti, autista che ora non si fa più trovare, o forse qualche miliziano incontrato ad un checkpoint. Ed è su questi punti che stanno tentando di far luce gli investigatori. E grazie a Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. Andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione parlando di calcio e dell'attesa per la partita di questa sera, quella tra la Roma e il Real. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Simone, buonasera a tutti, buongiorno a tutti, anzi non già questa sera, alle 20:45, quando la Roma giocherà al Bernabeu contro il Real Madrid, missione impossibile, cioè quella di recuperare lo 0-2 dell'Olimpico. Però è una Roma molto in salute, molto in condizione, 7 vittorie consecutive in campionato. È una Roma che ha un solo compito specifico, cioè quello di non farsi umiliare come è capitato in altre occasioni, ma non credo che succederà, perché mi sembra una squadra molto più equilibrata e convinta rispetto anche al recente passato. Si annuncia ovviamente una squadra molto offensiva, dovrebbe ricomparire Dzeko al centro dell'attacco con El Shaarawy, Perotti e Salah alle sue spalle. Non sono così convinto che poi vedremo questa squadra, però le voci dicono che la Roma che sfiderà il Real Madrid sarà questa, trazione anteriore. Vedremo come sarà dunque. Grazie a Carlo Genta, ritroviamo alle 14 con tutti i convocati. Avvocato Michele Andreano, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. È l'avvocato di Manuel Foffo, accusato e reo confesso, a dire il vero, dell'assassino di Luca Varani e la vicenda di Roma che ampiamente vi abbiamo raccontato. Le chiedo un attimo di pazienza. Avvocato, abbiamo una pausa per il traffico e poi parliamo con lei. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Partiamo subito con una notizia appena diffusa dalle agenzie. La Procura di Napoli ha deciso di aprire un'indagine conoscitiva sui video pubblicati da fanpage.it, nei quali si vedono alcuni rappresentanti del PD dare dei soldi alle persone in fila per le primarie. Basolino starebbe pensando di presentare il ricorso. Sui migranti c'è stato l'ennesimo vertice europeo senza esiti sostanziali. La Turchia chiede altri 3 miliardi, si rinvia tutto al 17 marzo. Di domani intanto arriva la pioggia su 13.000 persone ammassate nel campo, si parla ormai di crisi umanitaria. Positiva ai test antidoping, la tennista Maria Sharapova si difende, una sostanza consentita fino all'anno scorso, ma intanto saltano gli sponsor Nike e Tag Heuer, tra poco ne parleremo. Intanto, come già vi dicevo prima della viabilità, siamo in linea con l'avvocato Michele Andreano, che è l'avvocato di Manuel Foffo, ormai reo confesso appunto dell'omicidio di Roma, quello del quale tanto abbiamo parlato negli ultimi 2 giorni. Di nuovo buongiorno avvocato, dunque mi sembra una confessione a tutto campo quella del suo assistito, no? Sì, buongiorno. Beh, sì, direi di sì, anche perché lui ha espresso subito il desiderio di costituirsi e quindi quando il pubblico ministero ha interrogato, seppur ancora molto confuso e molto stordito dagli effetti della cocaina, in un lunghissimo interrogatorio ha cercato di fare luce e chiarezza su questa tragedia. Quanto è durato l'interrogatorio? Mi diceva lunghissimo. Guardi, abbiamo incominciato, se non sbaglio, alle 23 di sabato. Io sono uscito dalla caserma alle 4 e tre quarti del mattino della domenica. Si è fatto un'idea, avvocato, di che cosa sia successo nella testa del suo assistito? Guardi, questo no, anche perché non ne ho le capacità scientifiche e tecniche. Certo è che per quanto ha raccontato, per quanto ha detto e per quanto penso che andremo ad accertare, se ha assunto quantitativi di cocaina di quel livello e hanno bevuto superalcolici per due giorni ininterrottamente, lei capisce bene che gli effetti sono devastanti, per cui noi dovremo anche per dovere, diciamo, difensivo valutare se in quel momento non erano in grado di intendere di volere. C'è un'ipotesi, perché insomma ne abbiamo lette tante in questi giorni, avvocato, come tante ne avrà lette lei, perché chiaramente è un caso di cronaca che sta dominando le pagine dei giornali per le sue specifiche caratteristiche. Si è parlato anche di una condizione mentale del suo assistito che, a prescindere dalla coca e dall'alcol, non era molto stabile. Avete intenzione di utilizzare processualmente questa cosa oppure no? Un'infermità mentale, diciamo, ecco. Noi certamente dovremo esplorare tutte le possibilità e quindi la prima cosa che chiederemo sarà quella di una perizia psichiatrica oltre agli esami tossicologici. Domani mattina depositerò la richiesta di incidente probatorio in tal senso e con la massima, come dire, lealtà e anche tenendo presente il dolore della famiglia del povero ragazzo che è venuto meno. Quindi se ci sono le condizioni scientifiche e per poter dimostrare che in quel momento non era assolutamente in grado di intendere di volere, quindi parziale, oppure una incapacità totale, è chiaro che noi abbiamo il dovere di verificarlo. Senta, si è costituito e pentito? Beh, si è costituito chiaramente profondamente pentito di quello che aveva fatto e che man mano che passavano le ore si rendeva sempre più conto del dramma di cui e per cui è stato causa insieme. Quindi, ma quindi ci faccia capire, lui allora, nell'immediato proprio non si è reso conto di quello che stava facendo e di quello che stava avvenendo? Assolutamente no, tant'è vero che dopo l'episodio loro hanno dormito a casa, purtroppo con la salma del cadavere, forse per ore hanno dormito lì vicino a loro. Sono usciti, hanno fatto un altro giro per Roma e man mano, ripeto, che smaltivano, non si sono resi conto. L'altro ragazzo sembrerebbe che appunto è andato in un hotel per tentare il suicidio e il mio ne ha parlato con il padre. Cioè hanno compiuto un vero e proprio massacro e poi sono usciti per Roma, sono andati a bere in sostanza. Sì, purtroppo quello che ci ha detto è questo. Quindi è una brutta storia di cronaca nera sul quale però bisognerà indagare bene sulla volontarietà e sulla rappresentazione lucida o meno, come dicevo all'inizio. Sulla volontarietà cosa intende? Cioè, se erano incapaci di intendere di volere, io non voglio quello che faccio. Se invece erano capaci di intendere di volere, allora diventa drammatica e quindi l'ipotesi della precedente intenzione premeditazione, perdono. Perché mi scusi dalle dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali, ovviamente che sono filtrate, sembra che la premeditazione ci fosse, insomma, no? Se sembra... lei ci conferma, no, che Fofo ha detto noi volevamo ammazzare qualcuno, poi come dire, c'è capitato lui, ma insomma in realtà abbiamo cercato della gente per strada, no? Guardi, se ripeto, se non sarà possibile dimostrare scientificamente che in quel momento, in quei due giorni di follia totale, erano appunto folli e non si rendevano conto di quello che facevano, quanto lui ha riferito dal pubblico ministero, è evidente che non può avere, tra virgolette, un riconoscimento della penale responsabilità. Senta, se invece la perizia dovesse dimostrare che pur avendo assunto cocaina a quei livelli, pur avendo bevuto tantissimo, sono super alcolici, in ogni caso avevano degli sprazzi, dei momenti di lucidità e si potevano rendere conto di quello che facevano. L'ipotesi della premeditazione da una parte e dell'omicidio volontario dall'altra. Senta, allora, da quel che abbiamo letto, sono passate anche altre persone dentro quella casa? Sì, in quei giorni? Sarebbe che in quei giorni man mano chiamavano degli amici, oltre a questo spacciatore, che penso che adesso i carabinieri cercheranno di identificare, sono passate anche altre persone. Quindi questo, purtroppo, questo povero ragazzo è passato il terzo giorno mattina, quando ormai erano completamente fuori da qualsiasi realtà, ed è accaduto quello che è accaduto. Quindi penso che adesso gli inquirenti andranno a verificare, a riscontrare quello che il Fofo ha detto attraverso le solite indagini, telefonate, sms, WhatsApp e così via. La ringrazio, grazie all'avvocato Michele Andreano, il legale di Manuel Fofo. Qualcuno ci scrive e dice: stiamo giustificando gli assassini. Signori, qua non stiamo giustificando assolutamente nulla, abbiamo voluto il racconto dell'avvocato ed è quello che effettivamente ci ha fatto. Noi adesso cambiamo decisamente argomento, alleggeriamo un po', anche se è una vicenda che mescola cronaca e sport, è la vicenda di Maria Sharapova, che ha messo, insomma, che è stata beccata per doping, ha provato a giustificarsi, ma già gli sponsor stanno cadendo come birilli. Adesso c'è la fuga, perché gli sponsor sono come i topi delle navi che, quando affondano, sono i più lesti a scappare. Primi tra i tanti la Nike e la svizzera Tag Heuer, che con uno scatto da velocisti hanno sospeso il rapporto con Maria Sharapova, la campionessa russa che ha confessato la sua positività all'antidoping negli Australian Open. I wanted to let you know that a few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. Ho commesso un terribile errore, non ho letto la nuova lista VADA dei farmaci proibiti, ha detto l'ex numero uno del tennis femminile, che ha ammesso di aver assunto per 10 anni un medicinale, il Meldonium, contro il diabete, ma da gennaio nella lista proibita. Adesso Maria, che ha 28 anni, ha vinto 5 grandi slam, rischia fino a 2 anni di squalifica. Verrà giudicata dalla Federazione Internazionale, potrà appellarsi al TAS, ma al di là delle sue lacrime e dello shock, restano molti dubbi. Perché un atleta in salute abusa di un farmaco in realtà antischemico commercializzato in pochissimi paesi? E i suoi medici cosa dicevano? Troppe stranezze, troppe ingenuità in un mondo che non ammette ingenuità. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Come sempre, nella seconda parte della trasmissione, sentiremo uno degli accusati da un video pubblicato appunto dal sito fanpage.it di aver dato dei soldi per far votare alle primarie del PD a Napoli la Valente, ossia la candidata renziana. Tra l'altro, come si diceva poco fa, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo su questa vicenda. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: a Napoli, dopo il video con i soldi dati ai votanti delle primarie, la Procura apre un'indagine conoscitiva. Bassolino si dice disgustato. Sui migranti, l'ennesimo vertice europeo senza esiti sostanziali. La Turchia chiede altri 3 miliardi e rinvia tutto al 17 marzo. Notizia di poco fa: Maurizio Minghella, il serial killer delle prostitute, a cui oggi è stato notificato in carcere un nuovo ordine di misura cautelare per un omicidio irrisolto del 98, è indagato a Torino per altri 3 omicidi di prostitute avvenuti alla fine degli anni 90, sempre nel torinese. Positiva ai test antidoping, la tennista Sharapova si difende. Era una sostanza consentita fino all'anno scorso. La voce. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo a parlare delle primarie del PD a Napoli con questa cosa qua. Si sente male, lo sappiamo, però è questo video che sta facendo molto discutere, un video pubblicato da fanpage.it, anzi una serie di video in una serie di seggi nei quali si vedono delle persone che danno dei soldi agli elettori che arrivano a far la fila per le primarie. Come vi dicevo poco fa, la procura ha aperto un'indagine conoscitiva, Bassolino si dice disgustato, noi abbiamo intervistato una delle persone coinvolte in questi video, insomma, che viene vista mentre dà dei soldi, dà un euro a chi sta là in fila, e si tratta di Antonio Borriello, che è un consigliere comunale. Sentiamo cosa ci ha detto. No, è successo nulla, è successo che dal video che mi si ritrae non si vede proprio nulla, ma io ho rilasciato una dichiarazione prima di vedere il video, e che ricordo che una persona, massimo un'altra, ma non ricordo esattamente, uno è venuto nel seggio, non si trovava l'euro, questa persona che neanche conosco, a differenza di quella del video che io conosco, su persone, diciamo sì, che conosco da 20 anni, per non apparire scortese, io davanti a tutti, proprio per far comprendere l'eccezionalità di un atto così, ho detto vabbè, non c'è problema, votate, infatti gli ho dato del voi, perché non lo conoscevo proprio, nessuno di noi lo conosceva, però aveva il titolo di votare, non si era portato, non lo so, forse i soldi con sé, ecco, io gli ho dato l'euro per poter, non mi preoccupate, capiterà una prossima volta, che però è una cosa di nulla. Ed è successo con una sola persona questo? Io penso che quella che ricordo io è con questa. Poi se è venuto vicino qualche mio amico di partito, non lo so, o io stesso non avevo l'euro, me lo sono fatto prestare da un compagno di partito. Io sono venuto a votare, per votare mi sono fatto prestare l'euro, che sì, non c'avevo l'euro speech, perché ho votato di mattina, non c'era ancora la possibilità di cambiare. E poi è andato a casa, ne ha recuperati altri per... A questo recuperate? Punto, no, io non ho recuperato nulla. Mi scusi, dico se lei aveva, se lei si è fatto prestare l'euro, dico come ha trovato l'euro da dare alla persona successiva? Sì, poi io sono andato al bar dopo, ho preso il caffè, ho cambiato, e poi è capitato questo episodio, uno solo, nel seggio, davanti a tutti, perché non lo conoscevo. Un atto di ingenuità, forse la mi chiamatela questo, ma non mi, perché sono abituato a dire la verità. Un atto di ingenuità, non so se questa è ingenuità di una persona che stava dentro, nessuno di noi lo conosce, non aveva con sé questa moneta. Io ingenuamente, a questo punto devo dire proprio ingenuamente, ho preso l'euro che avevo, un euro avevo, e io l'ho dato, non so se sia a lui o addirittura a quelli che gli scrutatori che stavano lì. Questo è successo, come fate dire, molto... non me lo trovo, un caso, quindi uno. Quindi non era la cosa, ti do i soldi, tu vota per Valente, no? Tra l'altro anche il dato sull'affluenza, quale affluenza è stata più bassa, non più alta? È stata più bassa da voi, sì. Rispetto alle altre volte più basse, nel 2011 furono 2000, ma siamo a 1100 in tutta San Giovanni, in quel seggio addirittura 7,90 dove stavo io, 7,70. Sì, quindi poca gente tutto sommato, insomma. No? Rispetto a altre volte c'è stata sempre un maggiore partecipazione. Oggi infatti siamo spassati da 44.000 del 2011 alle quasi 30.000 di oggi, sì, comunque sì, c'è stato un calo dell'affluenza, e grazie alla battaglia di Antonio e di Antonio Bassolino, sì, questa partecipazione è ulteriormente cresciuta. Sì. Poi Valeria era sostenuta un po' dall'insieme delle forze del portiere, non da tutte, ma da quasi tutte le quindi forze. Lei dice non è che c'era bisogno di convincere la gente con no, i soldi. Ma però, non so neanche questo, perché non lo so, non l'ho mai visto in vita mia. È venuto lì e c'è stata questa circostanza, io l'ho fatto davanti a tutto, non quindi, è che mi sono nascosto. Mi scusi Borriello, quindi non era un militante del PD, cioè era uno qualsiasi che è venuto là a votare per le primarie. Non l'ho mai visto, non l'abbiamo visto mai nessuno di noi. Immagino che i militanti del PD San Giovanni a Teduccio lei più o meno li conosca tutti, insomma, quindi era uno così, insomma. No, questo uno di questi qua. Se è capitato una, massimo due volte, però non sono... Uno mi ricordo io, partecipi a questo episodio che era accaduto proprio davanti allo seggio per votare, e io così come gesto tranquillo, sereno, di fronte a una persona che non so neanche chi fosse, aveva diritto a voto, non si trovava con sé l'euro, ma una persona che non credo che si trovasse nella fame, tanto sì. Meno diciamo si potrebbe essere mortificato, non si trovava la moglie, non lo so perché lei perché non sta parlando con ecco, me. L'unica cosa, Borrello, lei ammetterà che no, vedendo il suo video, poi altri due video nei quali si no, vede. Io no, posso parlare no, solamente mio. Per sé. Nel mio video non c'è nulla. Io avrei potuto ieri fare la dichiarazione dopo aver letto, dopo aver visto il video, perché sono abituato a dire la verità sempre. Sì. Io ho detto che a me è capitato un caso o due casi, uno sì. di una persona che non conosco proprio, sì. e l'altro caso è probabile pure che un amico mio della sezione che ci frequentiamo anche a casa non si trovava lei, gliela allora mi sono messo come si dice un po' le mani avanti perché non lo so. Beh. Mi dice Borriano, per ultima cosa, questo, per curiosità, però lei deve sapere che nel seggio nostro c'erano tutti quanti, non c'è stato un minimo di contestazione, un minimo di tensione, per dice, nulla. Lei dice c'erano tutte le parti rappresentate, e per chiudere mi dice chi ha votato lei. Io ho aderito a Valeria Valente, che ritenevo e ritengo che nella battaglia per Napoli nei confronti del sindaco De Magistri è una candidatura che può aiutare di più il partito, il centrosinistra a vincere.